forte. Ma qui ho visto sorpassi adarmati. Ah, cazzo, aspetta un attimino, no? C'è la macchina guarendo, ora sto passando, mamma, non è più. Guarda, ci arrivo giusto, giusto, su poi al rimorchio. Ehi, troppo cammino per lo carriere, troppo, troppo. Poi vedi cosa succede, adesso gli è morto alle 11, ne è morto uno lì. Capito? Stavo andando a Olbia, e si è scontrato frontalmente con una Seat Ibiza, un orfo, e Seat Ibiza, ne è morto una persona. Ed era proprio di Sassari quello che è morto. Meglio, per carità. Ma non mi piace la strada a me. Ah no, no, prudenza, prudenza. Kappa kappa. Riprendi dove? Ma non solo, in quei così ti lascia, in quelle ricevute che ti lascia, ci ha messo solo nel cognome di lei, capito? E cioè non viene niente, invece quello di mio fratello c'è anche la via del padrone della casa. Vabbè, normale, sono ricevute fasulle quelle, capito? Non vanno bene, non vanno bene. Ma passa che la gente mi giù male, non mi ha fatto un cazzo a me. Vabbè, ma lei stava prendendo questa casa, l'ha fitto qua. E l'ha presa, poi ha avuto il problema che abbiamo fatto tanto, capito? Ce l'ha fatto quasi 1.000 euro in 3D. Cesso, per carità. Che ladri che sono però, delle persone disoneste. Figlio di puttana, ragazzi. Ma non paghi fare, tu e il bambino è meglio una trappilla di bussi. Dice, perché lui doveva affittarla a un altro, capito? Ma lui ha detto questa qua, quindi se ne 300 euro non me ne frega niente, perché anche tu hai ragione, la fai affittare a un altro, poi l'abbiamo presa lui perché cioè, si arriva lì, ecco, questa casa qua. Prima di 300 euro di un gozzo, l'ho affittato la notte, la... no, più a 320 kg l'ha pigliato. No, vuol dire onesto. Va bene, dai, che saluto domenico prima del però. Noi ti saluto, dai, ce la ascoltiamo quando scendi. Ciao, ciao domenico. A quando scendi, dai, ciao ciao. Saluta domenico. Cambia tutto. Ho cambiato i saluti di Luca, dove? Va bene, qui togliere tu, fatela restituire, dite abbia fatto culo per sempre il tempo. Se vogliamo un po', sentiamo a chi, io la metà non sono mai, non lo so, non so, se non si capitare a me, se non mettere il nome e cognome di me, tiravamo in culo, dove non si è giù. Ho fatto tutto il nero, quei soldi lui sono messi in tasca con la moglie, sono figli di puttana, perché è stato un figlio di puttana. Ma chi viene incontro almeno, coglione, cioè che di fuori, non sei stato di coma a un culo, ti da dire ammazzati, ma è di fuori. Guarda, ho fatto una pena alla ragazza, veramente. Non potevo mettere in mezzo di solo guai, va, non ho fatto quasi un niente. Poi infatti quando ti l'ho detto, tu lo stai tremendo, e anche che tu devo di me, cosa me la affutto, ti fatti quanto che devo di me, la puttana a me. No, forse era così, no. Il discorso di lui è stato troppo disonesto e forse è stato lì, se ne è andato a carabinieri e lui ha fatto una bella denuncia. E l'avevo restituito fino all'ultimo centesimo. Vedrai. È stato un bastardo il figlio di puttana pure. Esatto, ha fatto il miserabile e buco. Però vabbè, comunque. Mi ha fatto un cazzo. Già di bassa il muraetto, e riguri di bassa, lo riguri io, perché è stato anche disonesto. Africa, ok, ma non ha cambiato il nome. Vabbè, comunque, tanto, ti dico la paga lui, non di qui a te. Guarda, non sono stato neanche il furbo, come il numero di paga, ma fa un culo a me. Ho aspettato un contratto, un qualcosa, uno scritto, non c'hanno niente, proprio ha dato dei quadrini così in bianco. Allora, gli ha dato praticamente questi due fogli c'era scritto nome e cognome suo, come lì gli ha versato questi soldi, li ha fatti firmare, poi gli ha fatto dire, questo coso era grandissimo, vabbè, poi ce l'ha letto lui, il padrone. Poi l'amico, il mio marito mi sembra vero, vabbè, lo stavo dicendo, allora poi ha fatto prima dei fusi, prima dei fusi, ha firmato, ce l'ha tenuti lì, capito, e poi ha dato questi due fusi che lui, come l'ha pagato lì, ovviamente, però solo con nome e cognome basta, di lui, di lei. Di lui nulla, non ha messo nominativo né nome né cognome suo, nulla, un timbro o qualcosa che verificava che lui è il proprietario, non so. Negativo. No, allora andate a rifasciare la gamba, mi aveva fatto tutto da culo e dirà, non sono di... E stiamo fuori di... Tutto a salvare, mi va di niente, because di Ricprassa. No, è stato un casino perché non avevo neanche chiamato a casa a salutarlo, in verità con lui sì. È stata anche lì un po' dispiaciuta. È stato veramente un casino. Io ieri quasi non mi do un cazzo, quanto, perché mi sono comunicato che erano le 11:30, la notte, poi c'è da fare i 2, c'è da fare i 3, poi non ho più la sentiva molto la più, già la tricidava, poi lì non è stata bene, mi sono venuti due allo stomaco e tanti di tira, ui, vabbè, io non ho riposato niente. Poi tutte le cose che ho fatto a caricare la macchina, andare qua, andare là, c'era mio fratello per essere mi accompagnato a Urba a prendermi, ma è un casino, ma piace immaginare a tu. Io sono arrivato a casa che avevo uno straccio ieri, ma tu vuoi così, non ero proprio stanchissimo, ma mi sono addormentato subito, e stamattina alle 6:30 lo dovevo in piedi. Lo so, è quello che si chiama stress della giornata, e purtroppo quando succedono questi casini poi alla più fine poi è un casino veramente, guarda, no, è disonesti, cazzo, è non lo so, cazzo, ma se può, a parte ci vuole un contratto, non si fa mai le cose così, occhi chiusi, o in amicizia, ecco, ci vuole sempre un contratto, poi ho scritto, ho firmato da lui, da lei, compagnia bella, capito, cioè, tu non puoi affittare una casa, noi abbiamo di denaro, lui dimmi, no, non te la posso più affittare, no, ma non esiste proprio. Ti sto dicendo che è stato un figlio di puttana. Ma guarda che avrei già preso a tu, le 300 euro dall'affitto, le tue ore sono a far cuore, non ci ha mai creato niente, l'avrei già, tanto. Perché anche lui ovviamente ha ragione, gli ha dato la casa e purtroppo adesso devo rimetterla su internet, quindi dice, vabbè, ma gliela abbiamo messo, tipo mi ha 300 euro, ha fatto bene pure un wish nuovo. Cioè, fammi vedere il furgone vecchio, quello che ho sostituito, poi il furgone cino, non è il gatto della fusta, che ci sta affittando la casa per 300 euro, poi se tu hai solo 50 euro il furgone cino, allora ce la sbatta le balle, perché la casa è arredata, perciò la casa ci ha portato via niente, cazzo non va che adesso possiamo passare tutte le quarti d'ora io, adesso la basta il cammino e facciamo andare i, come si chiama, il coso che gli ho lasciato, come lui ha pagato, no? E poi tutto quel zendino passiamo di casini. Ma stai scherzando, no, ma non esiste più, e magari neanche sfruttato se l'ha commesso, così è. Ha fatto 3B, poi gli ha detto che ricoprava la bombola, quando sono arrivati domenica, bomba, lo chiamavi tu a comprarvi la bombola, ci poi ha detto che la compravi tu la bombola, ce la dobbiamo comprare lui, infatti abbiamo comprata la bombola, l'abbiamo comprata, l'abbiamo usata una volta perché comprava mia madre a cena con noi, e poi io poi andavo a casa, mi ha caricato a casa, doveva lasciare la bomba, fatti in brecco. E poi ci mancherebbe altro, gatto, che compri la bomba deve lasciarla lui. Lo so, non doveva neanche prendere quei soldi del camioncino, i soldi della serratura, perché la casa era sua, mica di quella ragazza la casa era sua, si è chiamata la serratura, è per le comunità sua, non per le comunità di quella povera ragazza che stava a prendere la casa d'affitto. No, io sarei andato, mi avrei spaccato il culo e avrei detto, ascolta, torna in vita lo che vuoi braccio, che io, impresa a culo. Vabbè, comunque, adesso vediamo, vediamo cosa ne esce. Guarda, ripeto, se restituiva almeno quelle 300 euro, non gliene fregava, cioè, se le 400 euro a capo, non gliene fregava niente, la verità. Per cui sono diamo giusto giusto per farsi l'assicurazione alla macchina. Allora, se n'è andata perché non si è reso conto che era senza revisione la macchina e senza assicurazione, e comunque è scadeva il 20 novembre, ecco perché se n'è andata. Ah, capo a capo. Comunque, erano disonesti, si fa dai carabinieri, si fa una bella denuncia, vedrai che lui ne leva appena l'ultimo centesimo, e non puoi pagare l'affitto e stare 3 giorni, no, ma non esiste proprio. E la salva. Passava, perché lui quel soldi lì non ha fatto niente, lui comunque lui si è chiamato da un'altra parte, mi ha trovato di lui, non trovava da un'altra parte, e se ne sta dentro la casa sua, gli ho detto. Poi c'è stato spiegato un contratto. via, capito? Salvo i previsti e compagnia bella, però lui deve rispettare il contratto. Quant'è? 30 giorni? 60 giorni? Deve rispettare il contratto. Cioè, in che senso? Ma lui non lì? Lui non poteva riprendersi la casa, doveva rispettare il contratto lui, il padrone di casa, non lì, no? Cos'è il fatto che si riprende la chiave di casa? Ma la bufone dice, mi dice scatta la denuncia lì e scioccarsi le mani per lui. Allora, questo mi sono spiegato bene, laggiù. Non è che ce l'aveva presa lui la casa, attenzione. Cioè, se, purtroppo lì doveva ripartire, per via problemi familiari. Questo non mica ce l'ha preso le chiavi lui, attenzione. Ma ha detto solo che quando lui ha firmato questi due fogli, mi hanno detto che non sapevano quanto rimanevano qua, perché la casa non ci piaceva più di tanto. A parte il fatto che non c'è a secondo piano, vabbè, non se la continua di comunque sia. E lui è convinto adesso, lui ce ne siamo andati da un'altra parte. E cosa? Allora, cosa ha fatto? Ma per Gardu, non è che c'è una mulino, è giunto un altro tipo. Non so chi era. Comunque sto dicendo che lui ha... Anzi, io non so neanche su di qua, se l'ha fatta apposta, non so neanche chiamata del telefono. Se l'ha chiamata di tu. Ah bello! Ha fatto i casini tu, perché ti faccio denunciare adesso? Sono cazzi duri, perché non sapevo come ti sei comportato, non ci dico. Beh certo, fregare i soldi così a questa povera cristiana, va bene. No, si è comportato una miserabile, basta, c'è poco da andare a tirare la nube. È troppo disonesta, non va bene. E qua salvo, io ripeto, non sono mai stato affitto, non, cioè non così, ecco, mi piace un corpo, chiamati, vabbè, già l'hai capito. Claudio non è stato in affitto, lui lo sa, lui ne sa queste cose. E voglio sapere se più o meno hai importo lei oppure questo paio non avresti tu i soldi, non tutti, però almeno le 100 euro in più, cioè le 400 euro. Non solo, i soldi non li ho restituiti subito, ho detto ti mando un vaglio a casa. Marco, no? No. Tu adesso come siete Claudio, senti un po' quello che ti dice Claudio e reagisci in base a quello che ti dice Claudio. Cazzo, non mi guardo il numero, se mi guardo il numero, e mi viene di là, non ti auguri giovi, che non sarà tua, io te la pongo con la gara a te. Infatti, è proprio così, guarda. Mi ha stato disonesto veramente, la credimi, ho fatto una bella a me, va. Non potevo mettere in mezzo, anzi non ho fatto neanche parlare a me, hai capito? Non ho fatto neanche parlare. Basta, lui già, non potevo dire, in montagna non si incontra, ma adesso li lascio incontrare. Infatti, è proprio così, e io. Ma, vabbè, ci sistemano le cose, non ti preoccupare, che vedrai che piano pianino casca come la per la cotta. Eppure se cos'è il bello, anzi brutto, o il bello, chiamiamolo il bello, non abbiamo consumato niente, abbiamo pugnato intelligenti tu, prendiamo a peccato con la scuola a bagno, la sua vita le aveva gata a biscia, cosa mi ha fatto pagare a Eddu, oppure attaccare la fuga e lasciarla fuori a fare via popolaria, sono stato intelligente, guarda. Cappa dai, ho sentito Claudio dietro, l'ho portato lì, no? Claudio sei tu. Non portati vino. Sandro, tu sì. Non portati vino. Non portatele. Capito, dai. Guarda. Sandro, sì. Dai, già sono io. Positivo, adesso vediamo la modulazione che ho detto di Gatto Maria. Mi sembra più. Ho capito, vabbè. Che altro? Lucarello, avanti Lucarello, passando. grazie anche a te, l'hai sentito. Cioè, sono un po' così, con le cose, le cosiddette palline girate, eh. Comunque, adesso vediamo un po'. Perché, guarda, un fastidio, guarda, che sembrava una persona seria, veramente. Guarda, sembrava una persona doc, ma si è comportato da pezzo di merda. Ho capito che sei, stasera sei un po' per... con i cosiddetti girati. Cosa vuoi che ti dica? In questo mondo, guarda, in questo mondo ti posso soltanto dire che non fa neanche affidarti, diciamo, di un fratello, di una sorella o di cosa. Si sta tutto cambiando, guarda. Non è poco ma sicuro, Sandro. Sono d'accordo con te, però a me non fanno questi pezzi qua, io non per un po' te, io non metto chiediamo che tanto scusa addirittura, non è che gli abbiamo detto niente di che, abbiamo che tanto scusa. Adesso dovevo fare fulettino bianco, si è arrivato alla tasca, infatti non abbiamo che tanto il contratto, siamo fatti un attimo così bloccati, ecco, bloccati. Li abbiamo lavato a casa, quando sono entrati faceva schifo. Schifo, se tu la pitti una casa arredata, dammela pulita, e andiamo anche pulita, sa, pensa tu, e andiamo mette pulita di più come la, cioè, gli sportelli del, come si chiama, del, cucina piatti, tutti incrozzati di Cipriano di Julio, la cucina faceva schifo, poi lui era tutto sporco, fa uno schifo, e si è comportato un pezzo di merda lui. Perché noi abbiamo la casa, l'abbiamo trattata bene, come c'è la casa, gli abbiamo restituita, anzi forse anche meglio, con l'apita pulita a casa, pensa tu, non ci siamo comportati noi. Sì, ma adesso non è per interessarmi, diciamo, così via, ma tu hai un contratto in mano? No, sono tutti i contratti. Al momento che tu hai preso l'accordo di prendere la casa, avete fatto un contratto entrambi, una coppia a lui e una coppia a te? No, ci ho fatto firmare due fogli, non a me, ma a quella mia ricca. E sono tutte quel tipo lì, i fogli. Ecco l'inghippo dove succede. Allora, in questo caso... non avendo un contratto stipulato semestrale, annualmente o così via, è come che uno sia nero, diciamo, sia abusivo. In questo caso il proprietario della casa, diciamo che ha il controllo dalla parte del manico. Ma perché? Va bene, se lui ha fatto tutto come facevo tu, allora agisco diversamente io. Cosa devo fare? Se lui è regola va bene, non agisco. No, se lui è regola agisco io allora, a questo punto. Sì, ma quello che ti voglio dire io, la legge logicamente non la mette ignorata. In questo caso cosa succedere? Succede, poniamo il caso che pagando l'affitto, innanzitutto quando pagavi l'affitto, ti faceva delle ricevute con la marca da bollo? Negativo, no. Mi ha fatto due ricevute e ha scritto nome e cognome di lei in stampatello e poi le ha firmate. E non solo, in queste ricevute qua non ha messo né via né nulla di lei. Allora, in questo caso il titolare dell'abitazione, prendendo caso che io ti affitti la mia casa, facciamo gli accordi, diciamo così, amichevolmente. Però non va bene amichevolmente perché tra un anno, tra 10 anni possono sorgere fuori dei disguidi. Quindi cosa succede? Ho fatto un contratto semestrale o annualmente. Di tutto affitto, diciamo, che si deve pagare, poniamo il caso di 50 euro al mese, ogni mese quando tu gli dai l'affitto, lui obbligatoriamente di legge ti deve rilasciare. cioè una ricevuta con tanto di marcapollo dove giustifica che tu hai pagato l'affitto. Se lui non ti rilascia ricevuta, se lui non ti lascia ricevuta con bollo, lui è moroso. Ma aspetta però Sandro, ci avevamo tre giorni, noi siamo andati domenica e sono andati via ieri, fate il conto, e ha preso 400 euro perché ha iniziato, perché la casa l'ha arredata, c'è tutto nella casa, nel senso che vabbè tutto Dio, così che noi riusciamo a stare anche, comunque vabbè. E dice lui ha parlato di questo furgoncino, a lui del furgoncino, cioè, ma se tu mi affitti una casa a me Sandro e tu devi fare, cioè ma stai affittando e se devi fare spostamenti sono problemi tuoi, non sono problemi miei, ma stai affittando, ti sto parlando quanto vuoi a me, 300 euro, 350, 350 euro, non c'è problema, poi se tu c'hai un furgoncino a portarti via, non so, qualcosa di tuo, un televisore, un mobile, un cosa, sono problemi tuoi, non sono problemi miei. Sì, vabbè, quello logicamente, quello a te non ti compete. Diciamo che a te non sono cavoli tuoi quelli lì, sono lui, si è arrangiato tutto quanto, però quello che ti vorrei dire io che in questo caso tu non hai una ricevuta, tu non hai un contratto, è come che uno fosse abusivo, quindi lui può dire tutto quello che vuole perché è padrone di casa. Tu dici A, lo dice B, la parola B non ha per dire. L'unica cosa che potresti fare per richiedere la ricevuta, l'affitto oppure il contratto, quello che avete fatto, una bella raccomandata, una ricevuta di ritorno con richiesta della coppia. Il tuo c'ha a fare, se lì non gli spiegano 300 euro, poi già vediamo un po' come ne esce, vediamo un po' perché non... Si è comportato male, se no la cosa è una seria, però visto è considerato che mi ha fatto, fare delle ricevute con nome e cognome in via del proprietario dell'appartamento, con la marca da bollo sopra, capito? La marca da bollo sopra. Sì, ma allora, finché hai un riscontro dove tu puoi dimostrare, ok, perfetto, tu puoi fare reagire come vuoi, ma se in quel caso tu non hai un riscontro, capito, e avete fatto soltanto un discorso, diciamo, verbalmente, quello non ha valore. Chi ha valore a fini, diciamo, di pretese del giusto, fa la carta che canta. E vabbè, comunque ce li ha lì due ricevute, te l'ho già detto, no? Come dire, ha lasciato il 300 euro e in più da fare i conteggi, tu pensa, la casa era 235 euro più 65 euro di condominio che la scala faceva pietà. Vabbè, dunque, lasciamo perdere quello. Poi un'altra cosa, vabbè, gli ha chiesto un mese solo di 400 euro di caffarra, non 300, ma 400. Adesso vediamo un po' cosa ne esce. Comunque lì ce li ha due, già hai capito, mi ha lasciato due fogliettini con come lui ha pagato, però io ho fatto anche una cosa, forse magari mi sbaglio anche, in uno ha scritto 300 euro, poi ha scritto solo ed esclusivamente in un foglio, fatto un furbo comunque sia, e nell'altro l'ha registrato comunque sia, ha fatto un visto io, in uno l'ha registrato, nell'altro no. Sì, diciamo che si è reagito un attimino così alla bonacciona, così alla bella media, però insomma, al giorno d'oggi, diciamo per quando uno per dire è veramente sincero, leale e vuole fare le cose, diciamo, come devono essere fatte, non ha problemi perché prende carpettina e pone, diciamo, un contratto semestrale annualmente. Dice tanto di affitto, ok, tanto di affitto, coppia a uno, coppia alle altre, basta, non c'è niente da perdere. Se poi cominciano a uscire fuori in bimbi, ricevuta no, ricevuta sì, ma che la palla sì, ma che la palla no, insomma, allora mi fai capire che vuoi fare il furbetto, allora puoi non incappare nei giorni seguenti, diciamo, più avanti, a via di sguida dei cosa, passaggiati tu essere sicuro, sempre una ricevuta, sempre un qualcosa di riscontro. Ragazzi, a fare, ma se sembra una persona tranquilla, ha detto anche, vabbè, lasciamo prendere la macchina a bollo, quella facciamo finta che va a sto regalo come dei pacchetti di sigarette. Queste parole qua ha detto. Sono rimasto un attimo così, perché? Perché, anzi dico una cosa, siccome non è lui il proprietario dell'appartamento, ma è la moglie non c'era il giorno, non c'era, questo gli passa qua più casini, perché chi è responsabile è la moglie dell'appartamento, non lui, lui non c'entra un cazzo, ha fatto tutto lui, ha fatto, la moglie ha solo filmato e basta. E vabbè, vabbè, questo non interessa perché diciamo, basta che risulta che siano coniugati, diciamo, ne può fare le feci, diciamo, anche il marito, questo non ha importanza, però l'importanza, diciamo, perché lui la marca da pollo sulla ricevuta la deve mettere per legge, perché se non mette la marca da pollo lui è moroso, capito, per la legge, perché la legge prevede una marca da pollo, perché lui poi deve dichiarare che ha affittato l'appartamento e dall'appartamento ne sta ricavando per dire 10, 50 o 100 e poi lo deve dichiarare. Adesso vediamo. Infatti la salita ha detto fammi sapere se ti spedisce soldi, mi fa un vaglio, ha detto, poi vediamo un po', perché se non spedisce soldi allora io vado alla ricerca e passa casini veramente questo qua. Guarda, la maniera è andata lui vuole quei soldi, io mi sono messo in mezzo, potevo fare a nome mio, allora l'avrei parlato, dici tu fammi mi dai, perché siccome purtroppo è successo quello che è successo, fammi mi dai. Le 401 va a caffarra, le 401 dal mese ti dici non mi interessa niente, però dammi le 401 va a caffarra, non iniziare a me a farmi i conti, 100 di qua, 100 di là, questo, quest'altro, no, no, assolutamente no. Poi, vabbè, è andata così, poi vediamo cosa ne esce. Tanto già, non trovo perché nella mia zona, mi tocca nella mia zona, sono pure un becco, poi mi faccio cantare 4 io a lui. Ehi vabbè dai, con la calma si risolve tutto, dai, basta ragionarci un attimino, arrivare a un accordo e vedi che le cose si mettono a posto, capito? Si mettono a posto le cose. Va bene, ok, chi c'era? C'era Antonio che era un po' in bianco. Cerchiamo di trovare un accordo, se no affari suoi, insomma, non mi interessa. Poi se ha ragione lui, contatto di documenti, ma non penso proprio perché è stata tutta una cosa così in nero. Perché quando un proprietario di un appartamento affitta la casa, deve, per legge, deve mettere nome e cognome del, cioè nome e cognome e via, è tutto, invece loro non l'hanno fatto, ha messo nome e cognome in stampatello e lì l'ha firmati la padrona, capito? E poi c'è tutto il resto, come gli abbiamo messo 301 e 30 ballacche. Un attimo del bianco, la batteria riprendo subito. Ok dai, vabbè, sai com'è. Al giorno d'oggi, cioè, meglio fare le cose come devono essere fatte, perché, già ho detto, in una settimana magari tutto bene, in un mese tutto bene, poi comincia il terzo, quarto mese, cominciano a uscire gli inghippi, cominciano a uscire malintesi, ma però veramente, allora per evitare, diciamo, meglio sempre fare diciamo le cose come devono essere fatte, giusto per evitare, diciamo, tutto lì, capito? Sandro, adesso vediamo un po' cosa ne esce, perché si è comportato malissimo, io la vita non me ne intendevo, cioè, la prima volta, ecco, purtroppo se non lo si capita un'altra volta, cosa del genere, non faccio altro che arrivare a qualcuno che è di competenza, per cui se lui è in regola va bene, non c'è problema, poi se lui non è in regola sono cazzi giù, a me me la futtiuta, perché si è comportato malissimo, sembrava una persona seria, non solo, la moglie è anche pittrice, perciò ci chiama, lei aspetta, si chiama Laura Tanda, mi sembra, o Tanda, è una pittrice. Ho capito, e vabbè, dai, va bene, ok, vabbè. Un attimino che io mi devo assentare, magari ci sentiamo dopo, dai. Sì, vai a fare faccia, ciao. Non sono i 400, tutti li ricaga. Non so, chiamato, gli ho detto mi puoi rilasciare il fondo del contratto per cortesia, grazie. Poi se non me lo rilascia, spedisco la persona che tu gli hai fatto il contratto. E se lui non fa queste cose qua, passa qua più casini, perché cosa fa lì? Poi non denuncia. Ha creato la casa abusivamente, gli ha affittato la casa abusivamente. Infatti. Parchetto, ci sei? Sessione parchetto. Poi ci sono le balle, veramente. Non mi le giocate veramente, va. Hanno trovato la persona, scusando la frase, la persona stupida, valenga, l'hai capito? Sì, ma uno non è un momento di turno, figati. Se vuoi prendere io ti basta casini, figati. Lui questo mi sono messo in tasca. Già il fatto che aveva detto che era furgoncino, mi si sono girati i coglioni. Era la serratura. Se fosse stato, guarda, peraltro che non si è letto, 101 euro del contratto, 101 euro per il condominio, va, lasciamo, perché c'erano quelli che stavano facendo le lampadine, queste cose qua, va bene, quindi altri 101 euro per lavorare il contratto, non se la putti nulla, guarda, 300 euro non ce la pagava niente, perché ormai si può dire che sulle loro ormai avevano fatto già le ricevute. A quanto pubblicamente essere che hanno registrato veramente, ma comunque di 300 euro non se la futtia nulla. Quindi gli interessavano non è 400 euro vogliato di trapparla, perché noi danno in casa non l'abbiamo fatto, anzi, l'abbiamo punto di più perché faceva schifo la casa. Allora, per carità. Adesso vedi, con calma e vedi un po' cosa ne esce fuori, se no metti in mano all'avvocato e vedi un po'. Adesso vediamo. Qua sono stati figli di puttana. Lo so. Claudio, non si è sentito. Parchetto, ci sei? Giuseppe. Dimmi tu. A casa sì, no? No, sono in macchina. Via, un macello, sto aspettando il tempo buono per che Alessio venga a farmi quella questione là e in questi giorni sono occupato, sto lavorando in cantiere, dunque di fronte a casa, dunque non c'è tempo. Lavorando stai? Sono entrato in questo cantiere. Sono buono. Cazzo era ora, cazzo. Speriamo che duri, speriamo adesso domani mattina alle 8. Dalle 8 all'una e poi dalle 2 alle 5 o 5 e mezza, dai. Ma che cosa? Manovale? Aiutante manovale, capetteria, capito di tutto. Vabbè, è nata lì, assicurato è tutto. Non negativo, è nero. Che cazzo, già, ma a titolo, mi ha preso a titolo di favore, mi ha preso. E quanto al giorno assunti? 40. Quindi a caso mi ci viene andato, un cazzo mi è andato ma 40 ore di... allora, che dov'è qua tu? Lo so, però... Non ce ne sono soldi e devi accontentare quello che ti dà, capito? Oh, ma noi non siamo extracomunitari, però, capito? Ecco qual è il problema, c'è il telefono. Fai la risposta al telefono, là.